non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai. Ho desideri scritti in alto che volano, ogni pensiero indipendente dal mio corpo. Credimi se puoi, credimi perché farei del male solo e ancora a me. Qui grandi spazi e poi noi, cieli aperti che ormai non si chiudono più, c'è bisogno di vivere da qui. Vivimi senza paura, che sia una vita o che sia un'ora, non lasciare libero disperso questo mio spazio adesso aperto, ti prego. Vivimi senza vergogna, anche se hai tutto il mondo contro, lascia l'apparenza e prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro. Così diventi un grande quadro che dentro me ricopre una parete bianca un po' anche stanca. Credimi se puoi, credimi perché farei del male solo e ancora a me. Qui tra le cose che ho qualcosa di più che non ho avuto mai, hai bisogno di vivermi di più. Vivimi senza paura, che sia una vita o che sia un'ora, non lasciare libero disperso questo mio spazio adesso aperto, ti prego. Vivimi senza vergogna, anche se hai tutto il mondo contro, lascia l'apparenza e prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro, è aperto in me la fantasia, le attese, i giorni di un illimitata gioia, hai preso me, sei la regia, mi inquadri e poi mi sposti in base alla tua idea. Vivimi senza paura, anche se hai tutto il mondo contro, lascia l'apparenza, prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro.